Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, tocca dunque a Delio Rossi provare a risollevare le sorti della Fiorentina. Alle 18 c'è la presentazione ufficiale allo Stadio Franchi. Nel frattempo c'è una dichiarazione di Mihajlovic. Dico a tutti quello che avevo messo sul campo non è bastato, scusate, mi dispiace tremendamente, ora analizzerò i miei errori perché certamente ne avrò commessi. È un'uscita di scena più che decorosa quella di Mihajlovic, è il sesto esonero, quello registrato con il cambio Mihajlovic e Delio Rossi da parte della Fiorentina, e siamo con 6 esoneri dopo 10 giornate, siamo a una media record, al passo con il record per l'appunto col primato di 17 panchine saltate nella stagione 2009-2010, e direi che rispetto all'Europa, che pure negli ultimi anni ha un pochino mutuato da noi questo simpatico vizietto, beh, insomma, quest'anno ci siamo portati nettamente avanti. Non è vero, Fabio Tavelli? Confermo. Buongiorno Gigi. Buongiorno. L'anno scorso c'era stata questa cosa strana per cui gli esoneri erano partiti con un po' di lentezza, sì. Invece insomma quest'anno siamo tornati alla normalità. Devo anche dirti che ci si porta avanti, eh? Sì, no, ma spesso abbiamo anche quelli che esonerano gli allenatori prima dell'inizio del campionato, quindi vanno conteggiati, sì, anche questi, certo. E in realtà poi conta di più perché poi di solito quelli che vengono cacciati prima dell'inizio del campionato trovano subito una squadra, e quindi diciamo che i numeri vengono molto tra virgolette gonfiati da questa cosa, però insomma l'importante, non diciamo niente di nuovo. Ecco, l'importante è far girare, non dico, ecco, in questo caso è far girare la panchina, cominciare per PA anche quell'altra, ma insomma faccia girare la panchina. Dunque, c'è una anomalia italiana, un'altra in questo caso, che è quella degli outsider al comando. Mi pare che in Europa si sia andati a una normalizzazione, e in Italia invece non ancora. Sì, perché diciamo che dopo le prime 2-3 curve di questo Gran Premio, che sono i campionati, possiamo anche dire che la velocità di crociera è un po' come un aereo, no? Che dà un grande strappo all'inizio, prende poi il suo corridoio e prende la velocità di crociera. La velocità di crociera sembra raggiunta in tutti i campionati, nel senso che la Spagna si è normalizzata, anche se il distacco, ma per motivi evidenti, non può essere ancora imbarazzante come sarà alla fine. Real Madrid e Barcellona hanno cominciato, ripeto, magari più lentamente del passato, la loro fuga. Accade in maniera più o meno simile in Inghilterra, anche se Manchester City e Manchester United hanno iniziato a prendere il largo, ma si stanno tirando dietro un discreto numero di squadre, diciamo soprattutto il City ha preso una velocità che difficilmente potrà essere tenuta dalle altre. Altre che non sono soltanto il Chelsea, ma ad esempio il Newcastle sta avendo un grandissimo campionato, il Tottenham sta avendo un grandissimo campionato, lo stesso Liverpool che sabato non ha vinto contro lo Swansea, non è comunque staccatissimo, e anche l'Arsenal tutto sommato dopo una bruttissima partenza si è un po' rimesso in corsa. In Francia sappiamo che il Paris Saint-Germain aveva bisogno di qualche settimana di ambientamento e poi avrebbe salutato la compagnia. È anche vero che sabato contro il Bordeaux ha avuto bisogno di un grande Sirigu per non perdere. Diciamo che l'unica vera anomalia è italiana, cioè con Udinese e Lazio davanti a tutte, tenendo naturalmente in considerazione il fatto che la Juventus ha una partita in meno, ma anche se la Juventus fosse in testa alla classifica in questo momento, per bestialità che possa essere, la Juventus in testa alla classifica rappresenterebbe un'anomalia rispetto agli ultimi anni. Ricordando due cose, che parliamo di una squadra, cioè l'Udinese, che l'anno scorso è stata quarta e ha disputato un preliminare di Champions League, e che la Lazio a questo punto del campionato l'anno scorso era prima in classifica, quindi sorprese sì, ma relative. Come no? E nei prossimi giorni, tra l'altro, questo è un avviso agli ascoltatori, in particolare di area friulana, ma anche laziale, direi. Insomma, mi farò aiutare da qualcuno che conosce bene sia Guidolin che Reia, che il calcio friulano in particolare, a studiare un pochino questo fenomeno, perché poi, tra le altre cose, Udinese non solo ha ceduto i suoi 3 giocatori più forti, ad eccezione di Natale nella scorsa estate, ma adesso, sempre tolto di Natale Andanovic, i 3 più forti li perde a gennaio per un mese e mezzo per la Coppa d'Africa. Posso dire una cosa su un altro allenatore friulano? Sì. Che è Fabio Capello, che a causa di un cambio di data della partita tra l'Inghilterra e Spagna, che passa da venerdì a sabato alle 18:15, si perderà il matrimonio del figlio Pierfilippo, che era messo in calendario il giorno dopo, e quindi non potrà essere presente. Però questa Questa è davvero una... perché immagino che l'avesse calcolata, no, questa cosa. Beh, direi di sì. Evidentemente non ha calcolato il Riviera. Riviera Matrimonio è un po' più impegnativo. Sì, che e poi non... va spiegato alla moglie. Insomma. Certo, andrebbe spiegato a fondo. Dunque, a proposito di testa della classifica, mi pare... il Marca in Spagna ha trovato una statistica secondo cui i 3 punti di vantaggio di Mourinho sul Barcellona dopo il pari del Barcellona-Bilbao sono già una sentenza. Sono una netta sentenza, perché Mourinho, da quando è diventato allenatore di queste squadre, cioè del Porto, del Chelsea, dell'Inter e in questo caso del Real Madrid, ma questa è l'ultima che dovrebbe verificarsi, quando ha avuto 3 punti di vantaggio, cioè col Porto nel 2002-2003 e 2003-2004, col Chelsea consecutivamente dal 2004 al 2006 e con l'Inter consecutivamente dal 2008 al 2010, ecco, ha sempre vinto il campionato. Cioè, quando è scattata avanti di 3 punti, la squadra Mourinho non è mai stata rimontata. È evidente che poi le statistiche prima o poi necessitano anche di una smentita. Onestamente credo che questa sia una prova che, se accoppiata all'autorevolezza con la quale il Real Madrid sta giocando in questo momento, mi porta e anche col fatto che ogni tanto il Barcellona, non dico zoppichi, ma sia un pochino meno terrificante del solito, mi porta a pensare che quando dicevamo a inizio stagione, Gigi, che il Real Madrid quest'anno avrebbe lasciato poco in Liga, forse potevamo anche aver ragione. Beh, al momento ha lasciato 39 gol fatti e 7 subiti, non che la media del Barcellona sia negativa, perché no. 34-6 è discreta, però comunque ci sono 3 punti di vantaggio. Come se ne cavate il Real nel debutto a mezzogiorno? Ma guarda, se l'è cavata bene in 2 modi, intanto perché ha comunque voluto dare un messaggio di incoraggiamento a Cassano, all'idea di Sergio Ramos di mettere a tutti una maglietta bianca col numero di Cassano e la scritta Forza Cassano, e poi è dilagata totalmente con Cristiano Ronaldo che segna anche di testa, infatti un titolo spagnolo in questi giorni è Aerolíneas CR7, cioè una compagnia aerea che se comincia a segnare di testa, lui non è che sia scarso di testa, però diciamo che rispetto al destro magari doveva un po' migliorare. Bene, adesso segna anche di testa e anche abbastanza costantemente. Benzema poi continua a segnare, direi molto bene. Insomma, 7-1 all'Osasuna, match di mezzogiorno. Mi hanno spiegato che in Spagna forse soffrirebbero di più a giocare alle 2 e che mezzogiorno è un orario non sbagliatissimo, perché più o meno è la fine della colazione, cioè, quindi diciamo dopo della la prima colazione. Però sì, della sì, prima e quindi della prima sì, sì, certo, sì, non di quella di metà giornata, sì, sì. Esatto, in attesa poi di sedersi a tavola davvero, sì. 4-0 in Spagna a fronte di queste macchine da gol che sono Barcellona e soprattutto Real. Beh, è un'anomalia, in Italia stanno sparendo o comunque si stanno un po' ridimensionando. 4-0 in campionato spagnolo sono tanti. Sì, anche è vero che poi noi 2 o 3 settimane ma ne fa avevamo avuto un pomeriggio drammatico dal punto di vista dei gol in quanto Serie A, un diretta gol senza gol o quasi, sì, è un'anomalia, ma onestamente io faccio fatica a vederci qualcosa di brutto, nel senso che ripeto, c'è 0-0 e 0-0, non credo siamo ancora in quella fase della stagione dove gli 0-0 possono essere figli della paura. È anche vero che in Spagna, non più sotto la seconda posizione ma sotto la quarta quinta, l'equilibrio è massimo, è totale. Dico sotto la quarta quinta perché comunque anche le squadre immediatamente vicine in classifica, Reale, Barça, ti parlo del Valencia, del Levante, del Siviglia, ma anche del Malaga, sono formazioni magari un pochino più forti di quelle dal Betis in giù. Ecco, ad esempio il Betis è una squadra che ha smesso di vincere, però ad esempio lo 0-0 tra Mallorca e Siviglia non è stata una brutta partita, no. Quella tra Spagnolo e Villarreal è stata molto combattuta, poi ci sono anche volte nelle quali accade di finire 0-0 anche, certo, in Spagna, sì. Alla luce del primato temporaneo di Lazio Udinese, scrive Gianni, non le sembra parziale il fatto che la Gazzetta dello Sport abbia dedicato le prime 10 pagine del lunedì all'incontro del Milan, anziché appunto di Lazio Udinese? Abbastanza, Gianni, però più che delle prime 10 pagine della Gazzetta io parlerei sempre delle 10 ultime, che mi sembra il vero problema. Torniamo con Fabio Tavelli. Perché resterei ancora un attimo in Spagna, ma non più per calcio in senso stretto, quanto per una proposta che, arrivando dal presidente del Barça, mi sembra discretamente rivoluzionaria. Basta con questi tornei a 20 club, torniamo progressivamente a 16. E sarebbe un segnale che, se l'Europa cogliesse, effettivamente non sarebbe malissimo. Sì, noi questo è un fa- fans club, il mio e il tuo, della riduzione del numero, certo, delle squadre nelle leghe maggiori. È evidente, non c'è veramente verso. Qui la moltiplicazione delle partite non fa né più spettacolo e credo e temo neanche più ascolti o più incassi, moltiplica semplicemente i problemi. Basti vedere quanto tempo devono impiegare le leghe piuttosto che le squadre e le diplomazie delle squadre per trovare delle date per inserire delle partite che per cause di forza maggiore devono essere posticipate, e quindi mi sembra che sia una proposta di totale buon senso. Io onestamente penso anche a come si possa applicare questa cosa, e cioè dovessero le leghe decidere di aumentare il numero delle retrocessioni oppure ridurre il numero delle promozioni mantenendo lo stesso numero di retrocessioni, cioè manteniamo le tre retrocessioni però facciamo che dalla B salga soltanto la prima. Basta, la cosa importante, Gigi, io credo che sia sempre di deciderlo prima dell'inizio del campionato, certo, e mai durante. Possibilmente. Ecco, sì. Senti, io andrei avanti, poi chiuderei con due notizie, una di segno meno e una invece di segno più. Quella di segno meno arriva dalla Germania, perché è una denuncia di Beckenbauer, cioè, o meglio, è una denuncia delle autorità di polizia, che sono in aumento violenze negli stadi, intorno agli stadi della Bundesliga, il che vuol dire che, per carità, non è un po' prestino per dire che tutto il mondo è paese, se vogliamo paragonare alla situazione nostra, però qualcosa che non torna comincia a esserci. E Beckenbauer, che è uno che non è mai stato affettuosissimo nei confronti dell'Italia, dice l'importante è che ci mettiamo subito un freno, perché non possiamo arrivare a una situazione come quella dell'Italia. Sta parlando Beckenbauer, non la Merkel, quindi stiamo parlando proprio di pallone. Questa mi sembra intanto una dichiarazione dura, e poi però mi sembra anche il sintomo di un contagio, evidentemente. Guarda, la Bundesliga sta vivendo un momento molto complesso. Se tu pensi che per la prima volta nella sua storia la Bundesliga ha avuto una partita giocata a porte chiuse, quella con in campo il St. Pauli contro il Werder Bremen, penso che in molti degli ascoltatori si ricordino di quella boccale di birra, per fortuna di plastica, intendiamoci, che arrivò sulla testa di un guardalinea durante una partita del St. Pauli contro lo Schalke. Era una partita di inizio stagione. Per quanto riguarda complessivamente, io onestamente da questo punto di vista ho notizie davvero peggiori, nel senso che stiamo parlando di un campionato nel quale spesso ci sono episodi di violenza, spesso le autorità di polizia devono intervenire anche in maniera dura, e rispetto agli anni scorsi l'aumento è esponenziale. Quindi io credo che Beckenbauer sia stato ancora prudente, cioè la Bundesliga in questo momento ha un grosso problema di ordine pubblico. Le immagini che arrivano dagli stadi sono bellissime, gli stadi sono splendidi, e quindi anche qui dobbiamo pensare al fatto che gli stadi belli, gli stadi ordinati, gli stadi numerati sono un deterrente, ma fino a un certo punto. Cioè, evidentemente la Germania ha fatto un salto in avanti ulteriore, cioè il periodo nel quale gli stadi, l'ammodernamento delle strutture dovute a Germania 2006 aveva anche portato a un comportamento migliore da parte degli spettatori, ebbene questo effetto è finito e adesso è necessario evidentemente intervenire con un'altra leva, che posso pensare sia semplicemente in questo caso la leva della prevenzione e la leva della durezza. In questo caso magari la Bundesliga potrebbe decidere di prendere esempi da come si sono comportate le altre leghe. Beckenbauer è stato sempre molto duro, mi ricordo nel 2006 in una conferenza stampa gli feci proprio io una domanda relativamente alle sue parole, a parole che lui aveva pronunciato prima, ben prima dell'inizio del mondiale, quando disse credo che l'Italia, la nazionale di Lippi, sarà un po' condizionata in negativo da tutte le vicende di Calciopoli. Sì, la cosa mi è tornata in mente proprio perché stasera ci sarà la sentenza a Napoli di quel processo, e Beckenbauer lì fu un po' più sfumato, ma ricordo invece la sua espressione, che non era certamente tenera nei confronti del nostro calcio, quando appunto io gli feci questa domanda. Non mi stupisce che Beckenbauer abbia usato l'Italia come termine di riferimento negativo. Ripeto, loro hanno un problema, in questo momento hanno un problema serio, vendono molti biglietti, hanno sempre gli stadi pieni, dovrebbero comunque, devono, sono costretti a lavorare anche un po' di più sul fronte dell'ordine pubblico, che la situazione non è onestamente rosea. Al punto che lunedì prossimo, 14 novembre, il ministro dell'interno tedesco Friedrich ha già convocato un vertice con la partecipazione partecipazione dei club, della federazione e evidentemente del ministero, non so se si chiama ministero degli interni là, o comunque in ogni caso dei politici, della classe politica, della classe governativa che si occupa di ordine pubblica, dobbiamo trovare una risposta, perché questa escalation di violenza non è accettabile. Ci rifacciamo la bocca con, direi, con questa intitolazione che lo United come club ha, e come tifoseria ha dedicato appunto per un settore di stadio a Ferguson. Sì, è una tribuna, lui ha detto, ma credo che fosse anche sincero, che la cosa lo ha molto stupito e lo ha ovviamente riempito d'orgoglio. Ecco, alla seconda ci credo, che l'abbia stupito o che l'abbia sorpreso, magari no. È accaduto sabato, quando prima della partita del Manchester United c'è stata questa veramente glorificazione in vita, per fortuna, di Sir Alex Ferguson, nozze d'argento, 25 anni, adesso c'è una tribuna di Old Trafford che si chiama Tribuna Sir Alex Ferguson, c'è anche in costruzione una statua. L'iconografia verrà sempre arricchita per un personaggio che è assolutamente singolare, compirà 70 anni il 31 dicembre ed è un onore che credo tutto il mondo del calcio gli debba. Non credo solo a lui, Gigi, permettimi di dire, anche a chi gli ha dato la possibilità di gestire il Manchester United in 25 anni, perché non è sempre stato il Ferguson di adesso. All'inizio il Manchester United, anche con lui, un minimo di fatica l'ha fatta, non ha vinto immediatamente, hanno avuto pazienza e molti allenatori in questi giorni hanno detto che resistere 25 anni sulla stessa panchina è qualcosa di impossibile. Credo anch'io che forse sia anche un po' troppo e non sia da considerare un termine di paragone, però diciamo che è una stella cometa, no? Ce n'è una ed è giusto che sia lui, insomma. È un bel caso limite con cui confrontarsi quando parliamo di personaggi di questo spessore e di tecnici di questo valore. Fabio, chiudiamola qui per oggi. Se non ci sono varie ed eventuali. Anche perché ti mancano, se no, 4 minuti e mezzo per tornare al microfono di Sky Sport 24. Sì, riesco a scendere e mettere microfono. Mi raccomando, la diretta. Grazie. Va bene, ciao Gigi, saluti a tutti. Era evidentemente Fabio Tavelli, il nostro esperto, il nostro ministro degli esteri per la verità. Torniamo agli affari interni, perché gli argomenti sono tanti, però mi piacerebbe farvi sentire questo ampio frammento di Cesare Prandelli, in cui si lamenta poi entro certi limiti, insomma prende atto in poche parole che la nazionale ha subito un doppio brutto colpo nelle ultime 2 settimane in chiave europei, perché sia l'infortunio a Rossi che che lo stop a Cassano sono evidentemente proiettati nel tempo e dunque lasciano un punto interrogativo non da poco sul recupero di questi 2 giocatori, considerato che negli ultimi tempi proprio la coppia Rossi-Cassano era quella che, tra tante alternative possibili, alla fine si era affermata come quella più affidabile. Non è un problema da poco. Prandelli. Sì, abbiamo lavorato molto proprio in funzione a questi 2 attaccanti e mi sembra i risultati erano più che soddisfacenti. Dobbiamo ricominciare, ma con entusiasmo, con ottimismo, perché io sono convinto che quei giocatori che abbiamo saranno comunque altrettanto non sono bravi ma anche efficaci. E nient'altro, non ho fatto pensieri negativi. Come diceva Antonio l'altro giorno, che paradossalmente nella situazione in cui si è trovato è comunque da ritenersi fortunato, perché non ha avuto problemi e se gli fosse successo 10 anni fa probabilmente sarebbe stato molto diverso. E quindi dobbiamo comunque prendere sempre con gli aspetti belli. L'aspetto bello in questo momento è che altri ragazzi avranno l'opportunità di dimostrare di essere giocatori importanti per la nazionale. A cominciare da venerdì in Polonia e poi da martedì prossimo in casa contro l'Uruguay per questo ultimo ciclo stagionale dell'Italia che gioca queste 2 partite amichevoli. Ma secondo voi, scrive Luca, non sarebbe opportuno ridurre le squadre di Serie A a 16? Negli anni 80 i campionati erano bellissimi. Apposta, Luca, sono anni che sarebbe opportuno fare questo, scendere magari a 18 come tappa intermedia e poi tornare a 16 quando l'equilibrio è è nettamente superiore, ma questo dovrebbe valere un po' per tutti, dovrebbe valere, come dice Rosel, per tutti i campionati d'Europa, in maniera anche da togliere questo, insomma, da spurgare il motore, no? In maniera che ci siano più date libere, più tempo per prenotare le partite, più tempo anche per il pubblico per gustarle. Io credo, è un discorso lungo, complesso, ma che secondo me prima o poi va fatto. Io confido che ci si arriverà, chissà quando, ma ci si arriverà. Beh, questa è una notizia singolare, nel senso che il Consiglio federale della Federazione Italiana Gioco Calcio è in corso di svolgimento da poco più di un'ora a Vicenza. Perché a Vicenza? Perché è un riconoscimento che il Consiglio federale stesso ha deciso di, insomma, di non dico devolvere, insomma, di attuare nei confronti di uno dei suoi componenti storici, cioè dell'avvocato Sergio Campana, che fino allo scorso anno, proprio di questi giorni, fu presidente dell'Associazione Italiana Calciatori per 43 anni. E quindi per solennizzare questo addio all'AIC, il Consiglio federale, di cui Campana continua a far parte, ha deciso, anziché di fare Maometto che va alla montagna come Campana ha fatto per tutti quegli anni, di fare per una volta la montagna che va da Maometto. Qualche ascoltatore chiede, per esempio c'è uno a Novara, Filippo, che dice: mi sembra di ricordare anche la natura del Bordeaux, era stato a lungo più di Ferguson sulla stessa panchina, poi si corregge in realtà, perché non era Bordeaux, era l'Auxerre, ed era il mitico Giroud che addirittura passò i 40 anni su una panchina. Poi qualcuno domanda qual è il recordman italiano, cioè qual è l'allenatore che ha resistito di più in Italia su una stessa panchina, e qui c'è Franco Piantanida che si è attivato. Se parliamo di tempi recenti, il recordman è certamente Carlo Ancelotti sulla panchina del Milan, perché 8 stagioni negli ultimi 20-30 anni in Italia non l'ha fatto certamente nessuno da quel livello in su. Adesso vediamo cosa troviamo tornando un pochino più indietro. E poi, se vogliamo, c'è questa statistica degli esoneri di quest'anno, dello scorso anno, dell'anno. Vediamo andando avanti. Intanto all'800 24 00 24 sono prenotati per primi un amico di Genova e uno di Treviso oggi. Giampaolo da Genova, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Buongiorno. Io non so se ne avete parlato i giorni scorsi, non sono riuscito purtroppo a sentire la trasmissione. Volevo parlare di Montolivo Camerini, cioè, nel senso, io chiamo da Genova e quindi siamo un pochettino sensibili a quello che è successo domenica. E io magari gli proporrei che invece di chiedere scusa sul sito, magari farsi un pomeriggio a spalare fango insieme a tutti i ragazzi delle nostre scuole, che invece di bigallonare in giro hanno approfittato per aiutare a togliere tutto il fango. Ma io penso, Giampaolo, mi piacerebbe che lo facessero, ma potrebbero anche pensarlo, in effetti, perché io sono assolutamente certo che si sia trattato, lo dicevo ieri, di una, non lo so di che cosa, ma non certamente di una mancanza di rispetto alle vittime di Genova e al disastro che ha colpito Genova e le Cinque Terre. Questo sinceramente mi sentirei di escluderlo. Capita, forse per i calciatori vale quello che per noi, parlo per me perlomeno, valeva ai tempi della scuola, perché forse fai un po' più fatica a crescere, allora sei in certi casi sei un po' stupidino, non riesci a concentrarti su quel momento, non riesci a far mente locale davvero, oppure ti fai distrarre da chissà che cosa, o semplicemente sei sopra pensiero, o sei alienato, come qualcuno di loro ha provato a spiegare, perché hai creato questa grande concentrazione sulla partita per esprimere il massimo sforzo, e dopo hai una reazione magari vagale completamente sbagliata. Ma sinceramente io escluderei che si sia trattato di una mancanza di rispetto autentico o di una cosa voluta, ecco. Primatisti, allora, Trapattoni alla Juve 76-86, cominciano a essere 10 anni e quindi siamo già davanti ai Ancelotti. William Garbutt, mi segnala Franco Piantanida, Genoa 1919-1927, tanto Garbutt fu uno storico grande allenatore e poi tornò al Genoa anche in altre riprese, quindi potrebbe essere potrebbe essere lui. Comunque parliamo sempre di 8-10 anni al massimo, non certamente dei 25 di Ferguson o addirittura dei 40 folli di Giroud. Fabio da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno, dica. Sono Fabio. E intanto, rilasciandomi il discorso che facevate adesso, secondo me è anche mancanza di rispetto ormai che manca, soprattutto delle scuole. I giovani non hanno più rispetto, non c'è più rispetto per il più anziano o comunque per le persone. Lo vedo in tutti i settori, non solo il calcio. Ecco Fabio, ma non però per questa sciocchezza di Gamberini e Montolivo. Sì, no, lasciamo perdere. Volevo solo puntualizzare, Guidolin non è friulano, è di Castelfranco Veneto. Sì, certo, è un friulano d'adozione. No, perché prima dicevate, vabbè. Volevo solo puntualizzare riguardo a Guidolin, sicuramente un uomo che è molto schivo e che pretende il massimo comunque e sempre dai suoi giocatori. Sicuramente in certe squadre dove c'è un po' di comarò all'interno dello spogliatoio non riuscirebbe a restare. In cui c'è un po' di... No, dicevo che... Sì, ho capito, ma che termine ha usato? In cui c'è un po'... Perché volevo imparare questa espressione. C'è un po' di... Comarò. Ma che è un comarò? Praticamente sa quando le donne si trovano a fare un po' di chiacchiere. Ah, cioè di comarato, non so come... Esatto. Sono troppe comari. Fanno un po' i galletti, diciamo. La ecco, prevalenza delle comari che poi si trasformano in galletti. Beh Fabio, comarò, oggi ne abbiamo imparata una. Grazie, questa la segnalo subito a Bartezzaghi, perché in quanto grande cultore, non solo lui, di neologismi o comunque di espressioni dialettali che in questo caso vengono italianizzate. Massimiliano domanda per iscritto: secondo lei quanto la situazione socio-economica di un paese può influire sulla violenza agli stadi? Tantissimo, caro lei, tantissimo in linea di massima, ma non necessariamente, ma non è un ingrediente alla base, perché ci sono... Perché i meccanismi sono molto, ma molto più complicati e ci vorrebbe una puntata intera, se basta, per provare a metterla a fuoco. Di sicuro così potrebbe servire una, se non una puntata intera, un po' di spazio anche per tornare alle querimonie di ieri, no? Di tutte queste lamentele, proteste, prefetto, mica prefetto, scandalo, vergogna, rinvio, perché mai, eccetera. Chi era la colpa? Insomma, la colpa non è stata sua, ma sembrerebbe certamente della Pay TV e della Lega a vedere quali sono state, no? Quali sono state le date di recupero, perché basta vedere che sia Napoli-Juve che Genoa-Inter sono state piazzate lì martedì 29 novembre Napoli-Juve e martedì 13 dicembre Genoa-Inter. Cosa significa? Significa che non potendo giocare due giorni prima ci sono altri due anticipi conseguenti al sabato nella partita precedente, tre nel caso di Genoa-Inter, perché anche Genoa ovviamente anticipa, e quindi la sensazione è che alla fine, no, visto che la Pay TV ne ha avuto un danno la sera di domenica, o poteva averne avuto un danno, l'indennizzo è scattato in maniera abbastanza cospicuo. Gaetano ha chiamato da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Complimenti per la trasmissione. Vabbè. Niente, solo dire due cose. Mi sembra che nella mia città, io sono tifoso milanista, però il Verona fa parte della mia storia, che si comporti ultimamente bene grazie agli allenatori tipo Bagnoli. Mi sembra che Mandorlini come allenatore sia una degna persona, non avendo nomi importanti in squadra. Grazie e ascolto per radio. Grazie a lei Gaetano. Roberto ha chiamato da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Uh-huh. Ma due considerazioni: una in merito all'educazione dei giovani, i quali non hanno responsabilità perché al di sotto di una certa età le gambe sono più veloci del cervello e i vecchi educatori sanno che nel periodo critico è necessaria una grande disciplina e una certa rigidità, ma più che altro per proteggere il giovane da se stesso e per formarlo, e questo per dare una risposta allo spettatore di prima. Sì. L'altro aspetto è quello dell'autorevolezza delle istituzioni e delle leggi e del buon gusto, che paiono assenti in questo paese, e pertanto il rispetto richiesto, ma non solo al giovane, anche all'adulto, non è supportato, come dire, da una percezione di serietà e di regole funzionanti in questo paese. Già. La somma delle due cose, secondo me, origina gli episodi che di cui stiamo parlando, insomma, no? Sì, fa da base, poi c'è da mix, poi ci sono ancora sempre le spruzzate di angostura, no? O le olivette da metterci su, però certamente questa è già una buona base. Roberto, grazie. Bagnoli, 9 anni a Verona, dall'81 al 90, anche questo è un bel record di longevità, e adesso è ora di tornare a sentire come va sulle strade. Peccato non potervi far ascoltare queste dichiarazioni di Buffon, che sono appena state battute dalle agenzie. Le sentiremo domani, perché il file audio non è arrivato, insomma, non poteva arrivare in questi minuti, proprio ha appena parlato adesso. Però ve ne anticipo una parte, perché per esempio a proposito del rinvio di Napoli-Juve dice: sono sincero, ero a Napoli e a mezzogiorno e mezzo era impensabile giocare, poi siamo partiti alle 5 e sembrava impensabile non giocare, ma decisioni del genere si prendono molto prima, i tifosi si muovono in anticipo, di fronte a un evento così imponente e a temporali che ci mettono in ginocchio a 7 morti, il calcio deve avere l'umiltà di mettersi da parte. E direi che cominciamo a essere 1-0 per Buffon. Quanto alla polemica, che sia pure sotterranea, molto velata, che Conte, diciamo al malumore che Conte e la Juventus hanno segnalato per una convocazione massiccia di juventini in nazionale, Buffon si è limitato a una battuta: quando convocavano Conte in nazionale lui volava. No. E mi sembra che qui possiamo anche metterlo sul 2, possiamo arrivare al 2-0 per Buffon. Dopodiché dice alla gente: non interessa se ci saranno o no scossoni al governo, interessa che si trovino soluzioni ad una situazione davvero drammatica, perché stiamo in un momento di grandissima difficoltà e questo è sotto gli occhi di tutti. La sfiducia nella politica, non ci si inventa politici in 2 giorni, siamo il tuo paese e vuoi dire la tua, serve un background di formazione. Vabbè, restiamo a 2-0, non ha detto niente che non vada, ma mi pare che i 2 gol li ha fatti prima, ma 2 bei gol però, entrambi, mi pare, sia sul rinvio che sui malumori, per non parlare poi del malumore di Galliani a proposito della convocazione di Abate, che mi sembra assai più gratuito ancora, perché insomma, il concetto era non vorrei che andasse in nazionale, più o meno anche lì Galliani, non vorrei che andasse in nazionale nel posto caldo a qualcuno chi? A Di Alma Santos? Cioè chi deve giocare esterno destro oggi in nazionale se non Abate o eventualmente Cassani quando sarà guarito? Ma insomma, Abate sicuramente non si sente un tappabuchi, meritava la nazionale da tempo, l'ha ottenuta forse già anche un pochino in ritardo, anzi adesso sentiamo che cosa ha detto da Coverciano. Come ho dovuto dimostrare nel Milan di essere all'altezza, è normale che devo dimostrare anche qua, e devo cercare di convincere mister Prandelli per le prossime convocazioni. Sono migliorato perché è normale che io ero un esterno alto, ragionavo solo da ala, e tutti i giorni a fine allenamento a lavorare da solo, oppure a lavorare tutti i giorni nella difesa a 4, tutti i movimenti della fase difensiva. Il mister per 3-4 mesi mi ha tenuto sotto torchio, e poi finché mi ha dato la possibilità di giocare con continuità, e ho cercato di pagare la sua fiducia. Comarò, precisa un ascoltatore, con una M sola, è un termine veneto e non è un termine italiano venetizzato, che indica il chiacchiericcio. Grazie, grazie della precisazione. Qua se c'è da imparare qualche espressione dialettale, di quelle davvero pregnanti, di quelle che davvero servono a esprimere un concetto, cioè chiunque ne abbia, senza poi inflazionare o trasformare, ripeto, questa trasmissione in un programma di glottologia, però per quelle comunque uno spazio lo troviamo. Troviamo subito anche quello per la rubrica di Nicola Filippone, sentendo che cosa è successo in un 8 novembre. Sembra ieri. 8 novembre 1992. Il Milan di Capello infligge al Napoli un umiliante 5-1 al San Paolo. Nel ruolo di mattatore assoluto c'è Marco Van Basten, autore di un poker. Il centravanti olandese, all'ultima stagione in campo, si ripeterà due settimane dopo in Champions, segnando 4 reti al Göteborg. Per l'allenatore del Napoli, Claudio Ranieri, la sconfitta con il Milan, arrivata pochi giorni dopo l'eliminazione in Coppa UEFA opera del Paris Saint-Germain, rappresenta il capolinea. Il presidente Ferlaino compie una scelta suggestiva, richiamando in panchina Ottavio Bianchi. L'8 novembre è anche il compleanno di Sandro Mazzola, che un altro anno compirà 70 anni, che sono davvero tanti per un campione come lui. E l'8 novembre del 76, proprio di Torino, perché insomma Sandro Mazzola è nato a Torino, anche se poi è stato, ha giocato tutta la carriera nell'Inter, l'8 novembre del 76 morì Giorgio Ferrini, capitano storico del Torino, aveva soltanto 37 anni, era il vice dell'allenatore Gigi Radice. Giuseppe dalla provincia di Padova, buongiorno. Salve signor Garantini, buongiorno. Io la seguo tutti i giorni e scusi l'emozione, ma comunque volevo parlare a proposito di quello che si diceva qualche minuto fa per quanto riguardava violenza negli stadi, e un altro ascoltatore diceva che i giovani non hanno più rispetto per quelli più anziani, eccetera. Ecco, io volevo una sua opinione su una cosa, visto il suo equilibrio. Quella pubblicità per televisione che stanno facendo, mandando avanti in diversi giorni, su di Vodafone, per esempio, dove un bambino distrugge tutto nella sua camera e dopo alla fine viene preso in braccio e tutti quanti dicono, gli viene detto, le cose belle si fanno in due. Ecco, è una cosa che non lo so, se da bambini si riesce a fare una roba del genere, penso che da grandi si riuscirà a essere più saggi. Giuseppe, no, non lo so, non vorrei, non posso pronunciarmi perché non guardo la televisione, nel senso che non guardo i programmi. Si immagini lei se guardo la pubblicità in TV. Per come la racconta lei ha certamente ragione, però i pareri si danno quando si è un po' più documentati di come non sia io in materia. E le dirò che la tentazione di vedere, cioè di riprendere antiche e per fortuna sepolte abitudini, tipo quelle di guardare la televisione, che non siano eventi calcistici evidentemente, per ragioni strettamente professionali, tolto il Barça, sinceramente me la risparmierei. Marco ha chiamato invece da Pistoia, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Niente, sì. La mia, Buffon, diciamo, ha un po' espresso il mio pensiero, no? Volevo fare una riflessione così in generale. Ora, io sono di quella generazione che sono simpatizzante della Juve, perché quando andavo alle elementari c'era una stadi che faceva tanti gol e quindi sono diventato simpatizzante della Juve, no? E a parte questo, cioè, l'usanza che c'è oggi di brontolare, di criticare di tutto, no? Sono un allenatore che critica perché c'ha 7 giocatori in nazionale. La Juve è sempre stata una squadra che ha avuto tanti giocatori in nazionale, anche l'ultimo mondiale vinto, cioè, dovrebbe essere un peso, no? Pregiarsi di questa cosa. Però questo, ma questo non vale solo per la Juve, vale per tutti. No, ma ora io parlo della Juve perché simpatizzo per la Juve, e è sempre stata una società nella storia, poi lei magari è più esperto di me, più attento, mi può dire di no, però una società abbastanza zitta, dove non faceva tanta confusione. Oggi abbiamo un presidente che la prima cosa che fa, insomma, dice quello che farà l'anno prossimo, non si sa neanche quello che si fa la sera, figuriamoci l'anno prossimo. Un presidente che prima di questo dicevano si vinceva, si spaccava il mondo, e siamo arrivati 7, per grazia di Dio. Sì. Cioè, quindi voglio dire, oggi il nostro allenatore, che sembra il salvatore della patria, e ancora oggi la Juve secondo me deve dimostrare tutto. Beh, tutto no, Marco, qualcosina, tutto no. Deve dimostrare qualcosa e deve andare avanti così. Siamo alla fine. Pietro Lacorte in regia, Franco Piantanida in redazione. Ci risentiamo domani.